Sì. Proprio di sì. Sì. Non ho sentito più nemmeno Roberto, sono già alcuni giorni senza sentire Roberto nemmeno. Si vede che anche lui è indaffarato. Roberto c'era stamattina in officina, sono andato a portarle della roba, sono andato stamattina in officina. Roberto, durante la settimana a volte c'è un sacco di lavoro ed è incasinato, capito? Solo per quello, però già dovrebbe entrare stasera. Ok. Infatti questa è l'ora che di solito entra lui. Adesso vediamo se è appena rientrato dal lavoro, non lo so. Comunque, siamo qua. Se vuole entrare già siamo qua, non c'è problema. Aspetta, io mi metto la cuffia, voglio vedere una cosa. Ok. Andate. Senza processore mi sto uscendo qua, con microfono a 1,5, cioè il micchino a 1,5, senza processore. Io vabbè lo stesso, no? Io ce l'ho a 2, col processore inserito. No, se lo metti a 2 strappa, con il manoletto poi, ma cosa ne so, io non mi sono ascoltato, dunque, se non in cuffia, ma mi sono ascoltato così e così. Mi sembra un'ottima modulazione, per cui va bene così. No, già va bene, voglio dire va bene. Ottimo per la truppa. Ora, 1, 2, 3 per la radio, 1, 2, 3 per la radio, ecco qua. No, già questa è la modulazione, già voglio. È questa. Non ci stanno problemi. Certo che sì, che è quella. E allora, avevi qualche dubbio forse? È quella, certo a fare, è sempre quella. Anche se magari qualcuno può sembrare diversa, ma io ti sento sempre così, poi, che ne so, sarà anche differenza di radio alle volte che fa cambiare la modulazione, ma io ti sento con questa, ti sento sempre così. Aspetta, c'è la radio accesa, aspetta un secondo, mi tolgo queste cuffie, mi sono accendi. In effetti col caldo specialmente le cuffie non è che ci stanno molto bene, le cuffie in testa con questo caldo, ma caridai. Sempre non funziona, beh, non ho capito perché, ecco. Aspetta. Cioè le cuffie ne funzionano una sola, non funziona, aspetta che metto il nastro. Se funziona una sola, o non è serio, o perlomeno vuole separata una parte. No, sono nuove lo spinotto, aspetta. Sì, perciò che sono nuove, d'accordo, ma se non è. La radio non lo so se è serio o se è mono, boh. Bisogna che sia anche quello compatibile. Non sempre. No, lo spinotto, aspetta. Ma la radio com'è? Serio è oppure mono? Non lo so. Perché se non è serio, magari le cuffie sono serio e la radio magari è mono, boh. No, è serio, è sempre quel jack grande che ci abbiamo. No, è lo spinotto, gli spinotti che vende Fusaro sono proprio una grandissima cagata, per carità. Ok. Sì, perché anch'io quando metto le cuffie ne sento solo una parte, l'altra parte no. Evidentemente la radio è mono. Mentre le cuffie sono serio, allora in quel caso lì funziona solamente una parte. Non lo so. Basta guardare lo spinotto, aspetta, com'è lo spinotto? Deve essere, allora, se ha 3 contatti, lo spinotto è serio. Per cui, però bisogna vedere se poi la radio è anche quella serio o è mono. Se è mono non può funzionare, allora ci vuole una cuffia mono. Cioè con solo 2 contatti. Avvisa un po' la vacone. Però prima avvisami poi gli passo io e me la raccolgo io. Ma diciamo, questo è Sennheiser HD205, sono buone, ma lo spinotto non serve a niente. È una sound, è sicuramente una buona cuffia, non ci sono dubbi. E vabbè, poi naturalmente bisogna vedere se è una sound che ha 32 ohm, o se ha 4 ohm, o se ha 8 ohm. Per la radio sicuramente vuole a 8 ohm per questa radio qua, perché 32 ohm sono stereo, sono ultra stereo, dai. Che ne ho cambiate, adesso va bene. Ho cambiato lo spinotto, adesso va bene. Ho tolto un po' la truppa e ci togliamo l'amplificatore, l'antenna. Ora. Andare. Vuol dire hai fatto l'abbinamento giusto? Che tiro tu hai messo? A due contatti o a tre? Gliel'ho cambiato, gliel'ho messo a uno, capito? A uno, per quello a tre no, non va bene. Appunto, sono uno nel centrale, poi c'è la massa. E allora è mono, è quello che ti stavo dicendo. Perché la radio è mono, mentre invece la cuffia, se è serio, è chiaro. Se poi hai cambiato lo spinotto, allora l'hai fatto lo scambio e l'hai fatto un adattamento. Sì, gli ho messo l'adattatore da stereo a mono, capito? Appunto, è quello. Se non è compatibile una cosa con l'altra, è ovvio che non può funzionare assolutamente, o perlomeno funziona solo una parte, o a destra o a sinistra. Sicuramente. È così, se no non può funzionare. Vabbè, comunque, risolto. Andava. E meno male che esistono tutti gli adattatori di tanti modi, di tante cose, che si trovano un po' tutto là. E allora uno che riesce sempre a risolvere il problema. È manco male. Infatti è manco male, tutto così. È meno male che è così. Io sto lavorando su questa radio. Non riesco a capire. Una cosa qua. Io non si abbassa la potenza. Non c'è cosa. Ah. Cosa stai verificando? Il cavi, Aspetta il telefono. Ok. Aspetta un attimo. Sono qua. Giulio, scusa che è arrivata gente, ci sentiamo dopo. D'accordo. Quella frequenza lì e mi sono fermato ad ascoltare, niente di più, perché non c'era nessuno. No, non c'è nessuno, certe volte, infatti per quello mi sono messo a fare queste cosette, giusto quindi per fare qualcosa. Appunto, hai fatto bene, certo che sì. Avevi il volontario dove avevi tutte le spiegazioni come ci dovevi fare e non l'hai provato. Perché succede così, quando si trasloca certe cose si sbandiscono al momento, però poi col tempo li trovi, perché li trovi. No, ma io sono abbastanza ordinato, sicuramente dentro qualche scatola c'ho ancora delle scatole da mettere a posto, capito? Sicuramente dentro lì. Perché succede sempre così. Io mi ricordo, avevo sempre quel progettino quando avevo fatto il microfono del legno, ed sono stato anni cercandolo, non riuscivo mai a trovarlo. Beh, il caso ha voluto che l'altro giorno l'ho trovato. Stavo controllando dei documenti che ormai erano documenti di 30-40 anni fa, li ho distrutti con la macchinetta che affetta la carta. Non mi sono trovato anche quel progettino di quel microfono. E io l'ho cercato dappertutto e non riuscivo mai a trovarlo. E dove era? Dentro una cartella assieme a dei documenti. Ti puoi immaginare? Sì, perché capita così, non c'è niente da fare. Capita sempre così. Quando la roba non la cerchi, no? La trovi. Quando la stai cercando, non la trovi. E certo che sì. Ma guarda che era una roba di 20 anni che la stavo facendo. Eppure non l'ho buttato. Io pensavo, non l'ho buttato, io queste cose non le avrei mai buttate. Ho fatto mia moglie, ma tu che l'abbia buttato, niente da fare. E in effetti era ben conservato. Era dentro una cartella, in un cassetto di un comò su una mansarda. Ho spulciato tutti quei documenti, robe, cose di buoni, del materiale che avevo comprato, eccetera, eccetera. Cioè come quando mi facevano ad esempio la bolletta accompagnamento, compravo per dire del legname, mi facevano la bolletta accompagnamento anche, è ovvio, e io me la portavo sempre a casa, tutta questa documentazione. Ma a Roma di 40 anni fa, sfogliando foglio per foglio, ho trovato questo progettino. La vanno a giocare, arriva il microfono, per cui potrei anche perderlo, che non me ne interessa più niente. Lascia stare così, già va bene tutto, non c'è problema. Di buona fa progetti e progettini, lui. No, ma poi non ho più la pazienza di una volta, lui. Pensa che l'ultima carcassa di legno che avevo l'avevo regalata a Gianluca di Porto Torres. Perché mi mancava il progetto, ce l'avevo sempre pronta, insomma prima o poi questo progettino lo troverò. E non l'avevo mai trovato. Il caso ho voluto alcuni anni fa, l'ho regalata a Gianluca, la carcassa di legno. Dice, fatela tu, se ti trovi un progettino, mettitelo dentro e ti fa il microfono di legno. Manca fare la poi che devo un progetto, adesso non ho la carcassa. Tu mi dirai, ma la carcassa te la puoi sempre costruire, certo, ma non mi metto certamente a costruire niente. Oh, ma non ci penso più. Lascia stare, già basta tanto le travagliate, lo legno ancora di buono, pure fa microfoni, lui lascia perdere. Infatti no, non è proprio il caso. Non è proprio il caso, guarda, ci avrei un bel pezzo di paduc, legno pesantissimo, ed è un legno rosso, che poi col tempo si ossida e diventa marroncino. Ma non c'è pezzo proprio, dai, basta, la povera che ho mangiato, già mi basta quella che ho mangiato e digerito. Sì, ma infatti, alla fine poi già va bene quello che abbiamo. Di stare ancora a fa lui, lascia perdere e andare. Io sto tenendo, scusate, intanto sto tenendo sotto controllo quel watt, metterò questa radio, perché poco fa mi ha variato di watt. La radio non subisce un minimo, ma nemmeno un minimissimo di niente, proprio è perfetta la radio. Il segnale è 9.5, questo momento sta arrivando 9.5. Vabbè, i watti sono pochi. I watti sono pochi, capito? Comunque, va bene lo stesso. A voi se va bene, la grande, cazzo, c'è così. 5 che vale 9,20, cosa te ne vai? È uguale, non cambia niente. Tanto quello che hai perso da questa parte l'hai guadagnato tutto dall'altra, mio qua, sicuro, sicuro, sicuro. Perché viene anche naturale, non a pensare quello. Se prendi qua, guadagni l'altra parte, perché ti sei allontanato da qua, ma ti sei avvicinato all'altra parte, dunque è normalissimo, no? E forse è anche più vantaggioso sentire da lontano lì, perché qua puoi arrivare anche con Santiago bassissimo e ci sentiamo, mentre là invece in lontananza hai bisogno di più segnale per poter ascoltare e soprattutto trasmettere. E dunque a questo punto, facendo in maniera obiettiva un piccolo ragionamento, secondo me ci hai guadagnato, per conto mio. Poi io l'altro giorno stavo parlando con un amico di Santa Teresa, arrivavo anche abbastanza bene, mentre la stasera non ci arrivavo, addirittura in 40 metri sento molto bene Urbia, in 80 metri, prima la Urbia non lo sentivo, tutti i paesi mi arrivano con 10 dB in più, fate il conto, Claudio, il figlio di Gianni, da 9 più 20 arriva a 9 più 30 adesso. Hai visto, sicché bene bene, e allora ho ragione con quello che ti sto dicendo, che hai guadagnato. E io, sinceramente parlando, avrei preferito, nella tua stessa posizione, io avrei preferito sentire più da quella parte là che da questa. Perché? Per il semplice motivo che qua, anche se il segnale è leggermente più basso, ci sentiamo lo stesso, alla grande, come prima, senza nessunissima differenza. E allo stesso tempo hai guadagnato dall'altra parte, è quello che intendo. Per cui hai guadagnato qua, per me hai migliorato, addirittura non guadagnato, hai migliorato la tua posizione radio. Io la penso così. Sì, ma non è importante arrivare 9.30 dentro Sassari, è importante che ti sentano fuori. Ieri mi arrivava Santiago 9, Sassari mi arrivava Santiago 5, capito? Quindi a me interessa ascoltare. Poi arrivare 9, arrivare 7, l'importante è arrivarci. Non è quello il problema. No, arrivate tutti magnificamente bene, davvero. Non mi posso lamentare di questo. Alla grande, alla grande. Appunto, per cui è meglio così qua, tutto sommato hai guadagnato, io ero obbligo che mi ha guadagnato, ma hai guadagnato di molto, anche non di poco, di molto, perché tu stesso mi stai dicendo senti a Urbia così direttamente, a differenza di prima che non li sentivi, senti Santa Teresa tranquillamente e lo colleghi anche, per cui cosa vuoi di più? E Santa Teresa sono 140 km, non è di dietro, no. Per cui vedi bene che la differenza è notevolissima, e magari la Sassari sarebbe stato quasi impossibile arrivarci, anzi sicuramente impossibile. Tieni sempre conto, Giulio, che io ho l'antenna sopra il muretto di recinzione con 2 metri di parificazione e altri 3 metri che escono fuori. Siccome per fare il lavoro come dico io, per non troncarmi il collo, essere in sicurezza, ci vuole l'autoscala, in questo periodo non mangio ganadi, anche perché deve entrare dentro il giardino e mi vado un casino. Adesso abbiamo chiamato il trattore, abbiamo pulito la strada esterna, adesso lo chiamo, lo faccio in posizione nella strada esterna, capito, per il piano di rubi, il piano di roba, lo faccio posizionare lì e l'antenna da lì passa sopra il tetto della casa e praticamente allora l'antenna vede Sassari, allora sì. Maggior ragione allora, per quello che ti sto dicendo, che hai guadagnato alla grande verso tutto il resto della Sardegna. Devi considerare che Sassari praticamente è all'estremità della Sardegna, no? E tu adesso riesci ad abbracciare tutto, sicuramente tutto il centro Sardegna, e non è poco. Capita, più soddisfazione di quella vuoi avere, e magari vai anche oltre il centro Sardegna, magari arrivi a Oristano tranquillamente e forse lo superi anche quando metterai l'antenna in alto sul tetto, sicuramente c'è quella possibilità. Beh, sicuramente migliorerà ancora di più, però ti ripeto, in questo periodo non aggiungerà, c'ho altre cose da fare, non sto pensando alla radio, però l'antenna va tolta da lì, capito? Perché l'avevo messa provvisoria, quindi adesso lo vediamo un pochino, appena c'ho tempo chiamo l'autoscala e lo faccio fare questo lavoro, e sicuramente migliora ancora. Tu sei arrivato lo stesso 9-8, picchi a 9-10, quindi più o meno il segnale mio col tuo combacia, forse tu magari c'è qualche watt in più, qualche picco in più, però combacia. Roberto mi arriva a 9-30, che è quello che mi arriva più forte di tutti, 9-30-35, io arrivo lo stesso a lui, Antonello Pomponio lo stesso, gli altri 7 tra 9-10 e 9-20 tutti, quindi per me è più che sufficiente ascoltare così, anche perché ti ripeto, non sono più giornaliero come prima in radio, però quando entro almeno vi sento, mi sentite. Certo, beh sì, appunto, perché vede bene tutto quello che ti sto dicendo, allora con Lima al 100%, no? No. Hai, per me, io la penso in questo modo, per me tu hai guadagnato, spostandoti hai guadagnato in posizione radio, in posizione di stazione, hai guadagnato, perché uno è da Bresciano per dire un quarto della Sardegna, essendo per dire stata di centro eccetera, l'altro è a Bresciano Sassari, iniziando dalla punta del nord fino al centro della Sardegna, è tutta un'altra soddisfazione. Adesso tu mi dirai, probabilmente ci sono pochi baracchini da quelle parti lì. Sì, vabbè, ma quando qualcuno accende, lo senti e hai la soddisfazione di parlarci. A differenza magari di prima, che anche se lui accendeva non potevi sentire, oppure lui non sentiva te per dire, no? Questa, la differenza è quella. Per me ci hai guadagnato, e alla grande anche, non poco, alla grande, il fatto di impostazione radio. No, ok, aspetta, no, non mi posso lamentare Giulio, va bene, va benissimo alla grande, no, non ho nessuna difficoltà, è verità. Sono più che soddisfatto, lui soddisfatto nel senso generale, per la radio poco mi interessa, ma sono soddisfatto di tutto quello che sono riuscito a fare e realizzare. Molto bene, ok, va bene, comunque, va bene così, dai, portate, ci sentiamo. Certo, così, è così infatti, è così. Per il resto, vabbè, la soddisfazione è grande, poi c'è sta, è solo fatto di aver realizzato e raggiunto il tuo sogno, quello che tu ti eri prefissato da qualche annetto a questa parte, e quello è già una grandissima soddisfazione, non poco, una grandissima soddisfazione. E questo da parte mia è l'augurio più grande che ti posso fare, che tu possa godertene tutti gli anni che desideri tu, sempre, quello è importante. Ah, poi anche il fatto di postazione radio, come ti dicevo, anche lì ha avuto un bel incremento, almeno per quanto riguarda per i vari collegamenti che puoi fare. Certo che sì, è così, va bene, dai, comunque non è un problema per niente, assolutamente, va bene, c'è sempre qualcosa che non mi convince, però qua non lo so, sarà, aspetta, sarà, ma non ci credo, dice quello. Ma io non posso capire che cos'è che non ti convince, perché per come ti sento non c'è alcuna differenza rispetto a tutte le altre volte, o meglio a tutti gli altri anni che ti ho sentito da 40 anni e oltre a questa parte, per cui tu non so cosa riscontri in questa radio. Il fatto del filtro, boh, non lo so, a cosa significa questo filtro? Per avere un'intelligibilità migliore in ascolto? Perché per la trasmissione non credo che c'entri niente il filtro, eccetera. Qua. Buonasera a tutti, vi saluto. Vai. Ciao. Buonasera, ben ascoltato. No, mi ha toccato dei parametri che io avevo registrato, avevo messo, fatta per me, capito? E purtroppo non trovandomi il manualetto mio personale da vedere se le regolazioni sono giuste, c'è qualcosa che non mi convince, no, il filtro non c'entra niente, solo per la ricezione, ma me l'ho bypassato in attesa che me lo mandi, perché ti ripeto, la rete era finita, l'ha provata, non andava bene. Non era convinto neanche io, l'ha tolto, me l'ha mandata di nuovo senza filtro. Però adesso me lo sta cercando, no, poi me lo manda, c'è anche una persona, un amico a Sassari che si sta mettendo la caccia, il primo che lo trova lo piattiamo e così siamo a posto. Ciao a tu, buonasera, ben ascoltato. Capa, buonasera anche a te, buonasera a tutti, mi. Ci sentiamo dopo, sai che è pronto a mangiare, dai. Vi saluto tutti, non so chi ci sia qua. Però vi saluto tutti in generale, ciao ciao. Ciao a tutti, ci sono io. Ciao Anto, ciao, ci sentiamo dopo, no, sto facendo le chiacchiere con Giulio e basta. Capo, io vado a mangiare, ciao ciao. Allora, il problema non è quello, assolutamente, no, figurati. Poi per quanto riguarda il resto, certo, da voi. Magari fossero le radio tutte come la tua, magari fosse anche la mia così. Ma comunque, ognuno naturalmente ha la sua voce, ognuno la sua radio, per cui interessante ascoltarci sempre. Poi per il resto non pretendiamo di più, va bene lo stesso. E lo dico là, poi segnale, ripeto, o 9.5 o 9.10 o 9.8, come di solito ne arrivi, già va bene ugualmente, che problemi ci sono, che differenza fa? Non fa nessunissima differenza, non c'è nulla di nulla. Claudio Eli e Claudio rimane, per cui va bene lo stesso. Palmiero Eli e Palmiero rimane. DFB Eli e DFB rimane. DFB, così era, la sua sigla, così era. Si conferma, devi fare da bravo. DFB. Ah, ecco, è appunto. Devi DF fare bravo. Andare. Per cui fai da bravo e accontentati. Sì, ho voglia che mi accontento, Giulio. Ma non è problema. Sì, perché sinceramente parlando, te lo dico come un fratello. Non ci sarebbe motivo nemmeno di preoccuparsi proprio di niente, ma niente in maniera assoluta. Perché va talmente bene che è anche superfluo, è quasi piatto sprecato, se non per dire quattro parole, che può essere un argomento di discussione qualsiasi. Non è vero la ragione per cui uno se ne va a reprimere o meno. Tu lo so che non se ne opprimi, sia una persona intelligente, lo sia uno stupido. Per dire no, va benissimo, non è il problema, no, non esiste assolutamente problema. No, ma non è per quello, perché ti ripeto, non è fastidio quando c'è, cioè, una cosa, ti mando una cosa per fare una riparazione, tu il resto non devi toccare, perché questa radio era, me l'avevo fatta per me, capito? Aveva dei parametri a livello personale, lì me l'ha tutta toccata, fatta, capito? Mi gira un po' le scarpe, detto qua. Sì, ti capisco cosa intendi dire, però tutto sommato non cambia niente, qua. Non cambia niente perché, ripeto, la tua trasmissione non è ultima, ma è addirittura eccellente, per cui sia in tutti i sensi, sia come segnale che come radio, per cui cosa te ne affucci, no? Quando ti capiterà di trovare il tuo brogliaccio che ti hai conservato ben bene, che adesso non riesci a trovare, vuol dire che farai tutti i parametri che a te interessano, ma così come sei, no, proprio il problema, vorrei vedere chi è che ha il coraggio di discutere sia la segnale che la tua radio. Boh, nessuno, nessuno si è mai permesso e nessuno si permetterà mai. No, beh, su quello non penso ci siano problemi. Non di certo, per cui non è di una pizza. Statene tranquillo, sereno, goditi la casa, goditi la vita, goditi anche la radio, e vedrai che non, quando nemmeno lo cerchi, anzi addirittura quando non ci stai aspettando più, a quel prontuario che ti hai preparato un po' di tempo fa, lo ritroverai, perché succede sempre così, sempre, sempre. Mi è venuto il dubbio, stavo controllando dentro un cassetto ma non c'è niente lì, non lo cammisiria. Vabbè, pazienza, cercherò con calma, oggi avete ricca. Cerca con calma, quando sei più tranquillo, che hai meno impegni mentali, soprattutto relativi ai lavori che stai ancora facendo, perché sicuramente ne stai facendo, perché lo so che funziona così, quando uno si trasferisce di casa il primo periodo è sempre un lavoro in più che uno si è procurato a causa del trasferimento eccetera, per cui rasserenati e poi vedrai che già lo troverai tranquillamente. Non è una cosa urgente quella, non è urgente per qualsiasi ragione, anche perché se tu non lo dicevi che avevi un tuo sistema personale, a chi è che lo poteva capire tramite sentendoti alla radio? Oh, io voglio vedere chi è che poteva decidere che tu avevi qualche regolazione da fare. Su quale base quello mi chiedo? Magari anche sulla base del segnale, capito? A volte ci siano V10, a volte sì, ma io la potenza la posso regolare, quindi posso andare con 10 watt e posso andare con 50, non è quello il problema, però preferisco andare sempre con poca potenza, perché queste radio è meglio andare sempre con poca potenza, sto qua. Va bene, ok. Che ore sono, Giulio? Sono le 8 meno 5 minuti, giusti, per cui siamo vicini anche all'ora di cena, probabilmente anche lì da te, non so a che la cenate voi, ma noi di solito tra le 8 e un quarto, ma quando succede proprio tardi, sono le 8 e mezza che siamo a tavola, per cui io dalle 8 in poi incomincio ad aspettare la chiamata, perché io ripeto sono sempre nel piano superiore e per arrivare giù c'è il salone e poi la tavernetta, o mi telefonano oppure mi danno una voce dal basso che io sento, almeno quando la porta è aperta qua, quando la porta è chiusa magari posso anche non sentire, allora mi fanno scusare il telefono. Gli ho detto ti metto un PMR giù e uno su, ha detto no, non me ne mettere queste cose, non le voglio io. E vabbè, non te ne metto, va. Mi sei considerato che ne ho tre. Infatti, ma cosa ne va? Ma il PMR, ma fastidini. Non basta la voce. È arrivando, sì, sta arrivando, mi è arrivato, faccio una passeggiata con la amica qua per la strada interna. Io adesso mi metto a posto tutta la ferraglia qua, c'ero tutti i miei sentieri e poi mi esco un pochino fuori col cane che cerca ancora dentro. Beh, ti saluto Giulio, grazie dei controlli, grazie di tutto, già ci aggiorniamo, dai, non c'è problema, stasera ci guardiamo quest'altra partita e poi aspettiamo la nostra Italia, ok? Ascolto il finale e poi chiudo, Giulio, dai, ciao. Ok, qua, sì, beh certo che sì, sì, anche perché questa è l'ora di sedersi al fresco, che è piacevolissimo sicuramente, lì soprattutto in campagna, perché c'è aria sana, aria pulita e soprattutto fresca. Va bene, dai, qua, ciao, grazie a te per la chiacchierata, ci sentiamo e statene sereno, non te ne mettere problemi inutili nella mente o qua, che la vita bisogna godersela serenamente. Vabbè, ciao qua, saluto di casa, ciao, buonanotte e buona cena. Ciao Giulio, grazie, grazie anche a voi, a te a casa, ciao ciao. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto? Hi, sono io. Chi è? Avanti. Ciao Tony, buonasera. Aspetta un attimo. A capo. Parla un attimo che devo vedere se ti ricevo con quello piccolino. Guarda che non mi devi ricevere con questo minoretto. Attenzione Natalino, ci sei capa? Mi riceve? Capo Natalino, sei basso basso sei qua. Prova a vedere. Natalino, cambiata vai. Capo, prova Natalino. Già, adesso ti ricevo. Capo, sei... sta arrivando l'otto così, sta arrivando, dai. Capo, già andava. Chi che voleva entrare? Avanti? Non lo so. Capo. Natalino, ma cosa... dove ce l'hai? Nel viottolo, dentro? Dove sei? Allora c'è dentro casa. Anche dentro casa ti arrivo. Allora già andava. Gappa, gappa, già lo so già. Oh, già vai bene già Natalino, dai. Sei per essere dentro casa e uscire da un viottolino. Sei Santiago 8-9, così, dai. Gappa, gappa, già va bene già. Quello piccolino. Tutti te li accendo il LED. Oh, tre prova. Dammi che non è poco, mi Natali. Ma la buccia di giocano. Capa, capa, ma già va bene già. Capa, già va bene già. Non so se col portatile ti arrivo. No, troppo debole forse. Ma come andiamo, bambini? Mi ha quel cuoco, ma ne mi. Buonasera Luca. Oh, dove sei? Ciao a tu. Allora, oi oi oi. Arriva la sera, non vedo a che sono vicino. Bello gasino. Salino, per il bella, sì. Dopo, mane. Capa, poco fa stavo facendo una prova col portatile, Natalino. Oh, qua l'ho sentito. Arrivi a 8 a me, immaginiamo ci sono sentivi tu. Beh, arrivava così rotta perché è drogato lui. Capa, era dentro casa, era. Ma io questo lo usavo e parlavo con tutti, capitola. Parlavo con tutti, anche con l'antenino sopra il frigorifero. Adesso mi devo smontare un tester che c'ha la batteria scarica. Ciambavira. E così faremo. Li metti a Callina, li metti a Callina. Ora chicos. Luca ci sei? Sì, aspetta, metto la c'è la scarica. Vai, vai, vai, ci siamo dopo, vai. Aspetta, Anto. Ehi, dimmi. Mi senti, Anto? Certo che ti sento. Devo fare una prova. Vai. Allora, guarda, tornando col Galaxy. Mi dici quanto è il segnale adesso, se la radio è buona. Buonissima. 9-10 radio 5. 9-10 radio 5. Guarda bene, perché mi devi dire soprattutto se la radio va bene, se il segnale sale. Ok. Prova. Allora, guarda se il segnale è salito e se la radio è buona. Ah, non è male il radio. Il segnale è salito ai 15 adesso. 9-15 la radio com'è buona? È così, no, non è buonissima. Allora, da me è fatto 9.10, quasi 9.30. E la radio com'è? Buona o rimane satura o com'è? Si può accettare? Sì, è comprensibile, è compressa, capito? Troppo compressa. E una cambiata di ZG, sto combinando un ZG, un B150 al Galaxy, ma non va bene. Non c'è da fare. A potenza chiusa, potenza tutta chiusa. Ma non è neanche da buttare, cla. Il segnale aumenta un bel po', però la radio è satura, cioè compressa. Si capisce, ti capisci bene, però si sente che si è agganciato. Vabbè, lo usiamo quando c'è il propagazione, dai. Allora lo sgancio, aspetta. Cappa, non è neanche male, però, Ehi, tanto lo so, però a me la radio mi piace, è bella. No, non vanno bene quelli da 30G, col gas soprattutto. Perché il gas c'ha la... o glielo regoli da dentro, capito? Il gas, anche se tu metti la potenza a zero, va sempre, soprattutto questa, 5 watt e 10 modulati, capito? Ed è lì che satura. Vabbè, dai, lasciamo così, ma la fotti un intanto, è giusto per fare una prova, adesso ne ho tolgo. Così sono 9-10, Luca, così è. Così ha detto Luca, o tu, Anto, 9-10, così. Ha detto così. Anche la testa sono 9 più 10? Sì, sì, c'è 9-10, c'è radio 5. Ma, dai, io, quelli che ho, l'unico migliore che ho provato è quello con le valvole. Secondo il mio parere, secondo il mio punto di vista, poi non lo so. Ehi, vabbè, si usi quelli che c'ho io, ma io non li voglio mettere quelli perché fanno un sacco di casino, non me ne fotti nulla, è giusto una prova così. Adesso commuto e passo col K, mi dici se il segnale è più alto rispetto a questo. Questo quant'è il segnale? 9-10. Ma no, perché commuto col K? Ecco qua, questo è il K, la modulazione, ma fa guba, il segnale com'è? Guba, se 9-15 e più 6. Vero? La radio com'è, buona? Non credo, già. Ma sei gubato, un altro pianeta, Un altro pianeta proprio a uno. Scappa. Non tengo sempre, tutto, ma pure da me ci sente. Certo, dove si sente, quello è il lock, io uso sempre il lock perché è molto più comodo, capito? Capo, anche io premendo questo lock ci sente lo stesso tocco. E ci conferma, capo. Capo, col pititino, ma io li uso entrambi, li uso. No, già va bene. Non ti preoccupare che va bene, ultimo per la truppa. Cappa, cappa, oh, che paraggioso. Un po' caldo, paraggioso, mi porto la doccia. Sì, adesso anche io vado a iniziare a preparare qualcosa da mangiare, dai. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene. Saluto a Luca, a Tatarino, a te e a... chiunque ci fosse in ascolto, dai, comunque mi confermi che va bene, l'ha scelto così, capo. Potrebbe andare bene, va bene, non bene, no, di più. Ehi, 10 watt sono, 10 watt e 20 modulati. Capo, no, va benissimo, va benissimo proprio. Ehi, dai, ci sentiamo anche, grazie, ciao ciao. Ciao ciao, ma mi darà una cosa curiosa, e intendo, in onge, in radio, Eia, e qui il lock dell'MC60 che fa così. Che allucinante, mi gioca a cucendi e lo sento pure io. Mentre invece se schiacci i pittetti senti solo toc, una volta e basta. Infatti, io do toc. Ehi, Clara, mi sono spostato dalla camera, adesso chiudo e salgo a cadere. Se ci siete dopo, se no... ritenetevi salutati, ciao. Ehi, come arrivo col K, Lu? Bene, 10 watt. Fai? Guarda, a vedere, 10 watt, 20 modulati, cambio. Sì, quasi sul più. Allora, andiamo, dai, la radio è sempre quella. Vai, benissimo, no, bene, benissimo, perfetta. K e Roger, ben, ci sentiamo dopo, ciao. Ci sentiamo. Ciao, Antu. Ciao, dai, io vado già a farmi la luce, ci sentiamo dopo, ciao. C'è qualcuno qua? cosa hai combinato? Che 9,50? E cosa hai combinato lui? Io? Nulla, cosa devo combinare? Se non ho detto malachino, Oh no, no, scusa. 9,40, sì. E vabbè, andiamo a Mario. Ma c'è un bel forte, c'è però, Ma ne puoi caricare un computer, va da va, per carità, il cattivo amico. Pinghioso? Pinghioso solo. Ma tu vieni bisogna a casa sua. Senti che lui già un attimo. Ok. Dì, se vuoi pogare tu il coso. A Burillo, un po' così grassatore. Anto, non stava puntando la tastiera. Cappa. Ma vedi tu si fa un po' così grassatore? Un po' benghinoso. Cavagava. Ha detto, mezzo al prezzo, portami anche un coso di grassatore. A solito devo comprare io, devo comprare un Chantecler. A capo ne do un trubingo, non via così un curondoio. Che sei la scarità? Guarda, io c'ho un po' di polvere, ma cazzo, io che c'è girato, licenza e lui è a posto. Cappa. Licenziato l'hai. Cazzo, allucinante. Si può toccare con le mani. Se non mi avevo gatto le mani, avevo quello un guignano. Ma se non è che si è toccato pure un mangaglio e tra un po' cinchi. Fala, sarà. Se non gatto di mangaglio, va più buon più. Di tutto, ma... Ma con un cassettino giù. Gesù Maria, Gesù Maria, ma cazzo è. Mi ha detto, te lo pulisco e te lo porto. Non è che te è pulito, Gesù Maria. Si può toccare con le mani, non si può toccare. Capo. Ui, ui, ui. Hai detto che farà... Napoli, capo. Mi sono dimenticato. Oggi chiudiamo la ruzza, io so. Quella di qua l'ho spento da qua e quella di giù, perché ne ho due di luci giù, e che danno una deciudata. Ui, ui, ui. Cos'hai fatto oggi con questa? L'ho deciudato. Ecco, adesso l'ho fatto. Allora, c'ho due luci, quella principale che si accende qua, dove c'ho il letto, c'è anche il pulsante là. Quella dove c'è il cucinino, mi sono dimenticato, me la sono dimenticata accesa, capito? Ahia. Ehi, sta casa è tutta progettata. Oh. Ehi, è una casa un po' particolare. Per ogni cosa fa un pulsante, effettivamente per un frigorifero. C'è la presa col pulsante, capito? Se lo voglio spegnere, lo posso spegnere. Poi c'è il condizionatore, vabbè, c'è il pulsante. È tutto così. Ah, il condizionatore c'è la passata adesso. Capa, è una antenna, secondo te non è piazzata. Ah, sta per il condizionatore. Capa, però il primo dove è piazzata l'antenna non è il condizionatore, è quello parallelo il nostro. Ho capito. Capa, tutto canto, così, tutta roba tra, cioè, questo è comprato il condizionatore, tutto. C'è gli armadi, quasi tutto, è completa la casa. Vabbè, se ci stai bene, Anto. Cioè, vabbè. Un po' particolare, per un figlio devo stare attento, devo stare. Anche se no te lo fa noioso, perché ci sono le scale. Fatta così all'imbrancio, dai. No, non è fatta all'imbrancio. La casa è fatta bene, però è lui che non verrà abituato. Ho capito. Aggiunga vita, mi avrei con la licenza. Capa. Ero io che non c'ero abituato, le prime volte in casa di un modo si farò dare a cara, perché ero abituato ad andare in bagno in diversa maniera, capito? Beh certo, ci sei abituato così da adesso. Capa. Già è carina già. Certo, quando ci sta bene cosa devi dire? Va bene, boh. Va bene. Ehi, magari volevo avere un appartamento meno di mamma. C'è un bambè, bagno, una cucina, una camera. E voi siete stato tranquillo e sereno. Capo, cioè, va bene. E più là se vi dai la possibilità di dare dello buon pareggio. Sì, sì, un buon pareggio. Ma quanto è il buon pareggio? Vedi un po'. Io più là c'è la possibilità, mi rubiglio. Te lo auguro, ma non lavora. Ma non lavora, lavoricchia, non è che si può permettere chissà che cosa. Però piano, se vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa. Capa, comunque buone le dinamiche, buone, ma ha fatto che cose. Ha fatto capire che non riesco, che non riesco a toccare questo compito con le mani. Tanto faccio la botta, eh sì. Caccione, ga. Non c'è bisogno manco quello zoom, lo vedi? Che schifo! Ma qua ci ha mangiato sopra! Cosa ci faceva i pranzi sopra questo computer? Ah, noi potevamo mangiare giù al computer. Sicuramente. Cazzo è da fare che finì il burro grafico tra l'abbinato di morri a burro, no? Dai, così non va bene. Chissà come ti sono in casa. Cazzo, ma dentro un bulo. Cazzo, mi avevo di cazzo, già avevo cantieri, viene in alto. Mamma mia, adesso che mi avevo rimane, zitta. Ma non so mai ti bigliacca e me la sussi. Per carità, va. La volta dirai. No. Non ce li hai i guanti, Luca? I guanti? No. Mamma mia. E come ti dico che si lava, cioè si lava un guru con le salpiette. Però va pulito, dai. Carità, e leva. Chissà, chissà, fatti vita a mangiare la pasta asciutta a casa di lui. No, oggi ho visto che in capo aveva pure la crosta. Che schifo! Ma sei che allergico all'eva? Ma non è che soluzione per ammazzare un biduccio? Mi sa un biduccio attaccando, no? Sì, va, non ci sono. Insomma, come fanno questa gente? Sono con troppo chizzinoso, sono questi bucari, un po' come biatene. Ho detto per carità, ma cazzo, non devo sudare, anzi, ma devo fare riavvio. Ah, io faccio Windows 7, una bombetta, è velocissimo. Cosa, Luca? Stavo parlando con Sara, cosa hai detto? Luca? Ho detto che adesso lo devo riavvio. Ah, sì, tacca. Ho di cucimignato, che sul computer. Cazzo di schifo, ma si bruca. Ma si bruca, per carità. Un cruscato è bruca. Conosciuno che in casa non si può manco entrare si può. Mamma madre di Dio, Oscar. E mi ha dato tuo suocero. No, già a casa adesso. Allora sono di tirare auto. E poi lui non ha detto neanche la verità, non ha detto. Gli dice che era bancale. E invece delle plaghe. Che cazzo, come mai? Come mai? Non è che è tanto zincaro. Allora poi va. Allora avevo combuttato tutto, si è mandato in burano circolo. A vedere se è dove era, cosa.